dei sognatori, e sgonfia i palloni di chi si crede migliore. Cammina nel fuoco e spengi la fiamma dell'odio, e aspira il fumo denso della vanità. Della vita ed il suo mistero, semplifica le cose per chi ha capito già, già, consola e incoraggia chi si sente peccatore, e distruggi la sede ufficiale del fottuto amore, protegge e si scudo per chi non ha protezione. Da ogni afflato sommesso di rivoluzione.